nella testa, effetti speciali creati dalle mie distorsioni mentali. È l'era del 3D, mettetevi gli occhiali per farli film mentali ad effetti speciali. Ho nella testa effetti speciali creati dalle mie distorsioni mentali. È l'era del 3D, mettetevi gli occhiali per farli film mentali ad effetti speciali. Ho messo una spruzza nell'orecchio e nel cervello per provare se l'effetto è bello. Pensate, malate, è quello che mi sale. So gocce d'acido nel midollo spinale. E su sto fatto ci ho ragionato, ho detto che so pazzo, non l'ho mai dimostrato. E adesso c'ho in mente che lo faccio. Ti rincorro nel parco con un coltellaccio lucente, affilato e tagliente, per tagliarti la gola in modo silente. Non uso i guanti, questo è il mio mestiere. I guanti come quando me elevano il piacere. De fatte fuori con queste mani, quindi adesso non sconvolgo i miei piani. Anzi me do e penso a domani, allo stronzo che te trova mentre porta a caghe cani. Ok, si continua con gli effetti speciali, anche se notte c'ho dietro gli occhiali. Li metto entrando in disco, consiglio e sospetto. Poi vola dalla botta in gabinetto. Sto preso, sto a vedere i draghi. Ci stanno tutte troie e la danno se le paghi. Mi avvicino, faccio il vinto vago. Ne approfitto per sapere se voglio quanto pago. Bella 500, famo tutte e tre. Gli faccio vedere cash e volamo nel privé. E qui il resto, già se capisce, non andate, le scopate e strisce. Troppe, troppe, il cervello impazzisce. Se mette male e male rifinisce. Ricaccio il pisè nel coltello e faccio se troie, vi è piaciuto il mio uccello. Ho nella testa effetti speciali creati dalle mie distorsioni mentali. È l'era del 3D, mettetevi gli occhiali per farli film mentali ad effetti speciali. Ho nella testa effetti speciali creati dalle mie distorsioni mentali. È l'era del 3D, mettetevi gli occhiali per farli film mentali ad effetti speciali. Effetti speciali per la tua mente, per due sguardi si incazza la gente. Tanto questa gente, tanto chi la sente, dei loro sguardi non me ne frega niente. E anche se non sono molto ambiente, mi guardi lo stesso perché sono appariscente. I posti e i luoghi sono sempre vari, ho per la testa mille fusi orari. Effetti speciali, se mi vuoi capire, molto spesso scordo anche di dormire. Scrivo testi, riga dopo riga, e per rendere sfiziosi parlo pure un po' de figa. Così la mia rima è sempre saporita. Questi effetti speciali sono il sale della vita. La donna conta in figa le dita che gli metti, e tu a metterne di più se ci rifletti. Ok, si continua con gli effetti speciali. Faccio magie come il gatto con gli stivali. Ero il pusher delle meraviglie, quando sotto cassa proponevo le pastiglie. Orba alle feste trova tutto quel che vuole. Ora siete voi i coglioni a chiappa sole. Pensa che se pippa pure tua figlia. Scaglie di speed con sapone di Marsiglia. Visionario come Super Mario Lenz. So stato pure un happy trip friends. Mi sono messo trecce afroamericane con un stile da pappone per attrarre le puttane. Ci sono andato pure alle serate per rimorchiare ancora più patate. E se te vuoi fa pure due risate, ci stanno pure quelle che ci so cascate. Ho nella testa effetti speciali creati dalle mie distorsioni mentali. È l'era del 3D, mettetevi gli occhiali per farli film mentali ad effetti speciali. Ho nella testa effetti speciali creati dalle mie distorsioni mentali. È l'era del 3D, mettetevi gli occhiali per farli film mentali ad effetti speciali. Ho nella testa effetti speciali creati dalle mie distorsioni mentali. È l'era del 3D, mettetevi gli occhiali per farli film mentali ad effetti speciali. Ho nella testa effetti speciali creati dalle mie distorsioni mentali. È l'era del 3D, mettetevi gli occhiali per farli film mentali ad effetti speciali.